9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 23 di settembre. Il tema di oggi è delicato ed è un tema che ricorre spesso nella trasmissione che conduco. È il tema sulla guerra che segue tra i coniugi, per i figli soprattutto, oltre che tra loro, all'esplosione di un rapporto coniugale che molti ritengono nel nostro paese tenda a esplodere con troppa facilità per l'incapacità di distinguere le emozioni, il trasporto, la passione, l'eros dai sentimenti, che sono qualcosa di più profondo, radicato, e che dovrebbero indurre noi tutti, non faccio maestro nessuno ovviamente, a avere qualcosa dentro di sé che impedisce poi di confondere l'evoluzione di ogni rapporto con la radicalità invece degli scontri, delle avversioni, e quando si tratta naturalmente di bambini e bambine che ci vanno di mezzo, di vite compromesse, rovinate, ipotecate da ciò che l'astio, l'avversione e lo scontro producono nella vita di tutti i giorni dei figli. E il punto che facciamo oggi, dopo l'ennesimo episodio pochi giorni fa di un padre a Brescia, allonato, che ha sparato a una figlia di 3 anni dopo l'affidamento alla madre di pochi giorni prima, e poi si è a propria volta suicidato, è un punto di riflessione che facciamo sulla legge dell'affido condiviso, che dal 2006 è entrata anche nel nostro ordinamento. È una legge molto diffusa, in Francia c'era dal 2002, prevedendo il doppio domicilio, ma soltanto se gli ex coniugi abitano vicini e il figlio può restare nella stessa scuola. E in Francia però l'affido condiviso lo scelgono solo il 10% delle coppie. In Spagna è una misura in realtà eccezionale, perché va richiesta da entrambi i genitori, e solo in alcune parti del paese, come Catalogna e Aragona, diventa la soluzione invece preferenziale per legge. C'è chi ritiene che anche nel nostro paese si debba introdurre un istituto, che c'è una fattispecie, meglio, che invece c'è solo in Brasile, che è l'unico paese a riconoscere per legge la sindrome da alienazione genitoriale. Che cosa sarebbe? La malattia che colpisce i bambini, appunto, a cui un genitore parla male dell'ex coniuge, ed è previsto nel codice brasiliano, perché chi assume questo comportamento e viene poi provato in giudizio commette un vero e proprio reato. Non voglio immaginare quanti milioni di nuovi fascicoli si aprirebbero nel nostro paese, però c'è chi dice che bisogna introdurre un nuovo deterrente aggiuntivo per questo comportamento, che è un comportamento che è spesso riscontrato e portato in giudizio dal coniuge che si considera soccombente, leso nel suo diritto di genitorialità, dall'altro ex coniuge che gli mette contro il figlio. In Svezia invece l'affido condiviso è praticato da più di 30 anni, quasi 40, e vale anche per le coppie non sposate. Da noi qual è il bilancio dell'affido condiviso? È un bilancio controverso. Abbiamo parlato nell'ultima trasmissione, poche settimane fa, di una sentenza a Milano che ha fatto molto discutere, perché i giudici del Tribunale di Milano hanno detto: in realtà la legge sull'affido condiviso non ha cambiato se non formalmente la sostanza, che resta quella invece della legge precedente. A propria volta il maggior responsabile, colui che stese lo schema dell'affido condiviso, Marino Miglietta, il presidente dell'associazione Crescere Insieme, ha rimesso mano anche in questa legislatura a nuove ritocche, nuove modifiche, di cui parleremo oggi. E c'è chi pochi giorni fa, ed è questa stata la decisione che con Alessandro Marco Tulli ci ha portato a fare oggi la trasmissione, sulla Stampa di Torino ha avanzato una proposta nuova, ulteriore. E stiamo parlando del professor Carlo Rimini, che è professore di diritto privato all'Università di Milano, e Carlo Rimini nel suo articolo sulla Stampa si è chiesto se invece di continuare su manutenzioni a ogni legislatura delle leggi sull'affido, non sia il caso di fare un passo avanti più decisivo ancora nel nostro ordinamento, e cioè di avere mente a questa lunga scia anche di sangue, ma soprattutto di dolore e sofferenza che riguarda milioni di ex coniugi separati e divorziati nel nostro paese e i loro figli, prendendo atto che fino a questo momento non siamo riusciti bene a incardinare una soluzione che contemperi il rispetto dei diritti della genitorialità e quelli naturalmente dei minori da tutelare nel loro libero processo di formazione della personalità, il più possibile scevro dall'incubo di vivere in una situazione compromessa ogni giorno. E allora la proposta del professor Rimini è quella di introdurre un vero e proprio giudice della famiglia, una specie di casco blu permanente nel nostro ordinamento su questo incrocio che nella quotidianità italiana si testimonia molto lontano da quell'idea di serenità, di valori e di soluzioni concrete, condivise, che dovrebbe essere il progetto di una famiglia. Io aggiungo l'ultimo caveat: molti mi dicono su questo argomento che dovrei molto misurare le parole e gli entusiasmi, perché io ovviamente poi in realtà una famiglia mia non ce l'ho, figli non ce l'ho, molti mi dicono è facile parlare, la vita è un'altra cosa, tu per primo se non te la sei fatta vuol dire che è inutile che chiacchieri sul valore dei sentimenti degli altri, visto che probabilmente non ne hai di radicati. Aggiungo questa autoaccusa e questo caveat perché non ho intenzione di passare come un giudice dei comportamenti altrui. Quello che mi interessa però è rilevare, da conduttore di trasmissioni, da giornalista, da osservatore della vita italiana, che se migliaia davvero in internet, Facebook, sulla posta quotidiana che ti arriva, se conduci una trasmissione, migliaia di appelli, di videoappelli di padri disperati, decine e decine di associazioni di padri in lotta contro i matrimonialisti, avvocati, contro i giudici, contro loro ex mogli, è un fenomeno che è diventato così rilevante nella vita italiana che voltarsi dall'altra parte o pensare che si tratti esclusivamente di spostati, di maschi spostati che tendono in questo poi a dimenticare che in realtà quasi ogni giorno in Italia c'è una strage familiare e nel 75% dei casi sono gli uomini a metterla in atto contro le donne e nel 12% dei casi sono poi i figli ad andarci di mezzo, e quindi se fate la somma delle percentuali, ripeto, forse il genere maschile ha di che riflettere su quanto sia origine e cassa di risonanza esplosiva di questo fenomeno. Però detto tutto questo, e mi ha ribadita la mia convinzione, vado subito agli ospiti di giornata e abbiamo innanzitutto appunto il professor Carlo Rimini, che saluto, buongiorno. Buongiorno a voi. E Marino Maglietta, il presidente dell'associazione Crescere Insieme, autore del testo base della legge sull'affido condiviso. Buongiorno Maglietta. Buongiorno. Allora, professor Rimini, ci spiega in dettaglio meglio in che cosa consisterebbe questa innovazione ordinamentale, che tipi di paragoni o di analogie ha in altri ordinamenti e magari anche con quali risultati, o se si tratta di una vera e propria novità, cioè di assumere per il caso italiano, per la sua particolarità, una soluzione diversa che non c'è da altre parti, per sperimentarla per primi. Di che si tratta? No, innanzitutto io non ho inventato nulla, nel senso che di questa, dell'istituzione di un giudice della famiglia, in realtà in Italia si parla da anni, ma se ne parla con un'inconcludenza tipica, aggiungo italiana, aumentata dall'inconcludenza particolare che si verifica quando in Italia si parla di diritto di famiglia. Per cui io mi sono limitato a riproporre un tema in realtà quasi logoro, e un tema che ci vedrebbe ultimi della fila, come temo spesso succede nei paesi, se ci confrontiamo con i paesi coi quali siamo purtroppo abituati a confrontarci per civiltà giuridica, arrivando spesso un po' ultimi della fila. Voglio dire, in Inghilterra esiste la family division, quindi un giudice specializzato che si occupa delle questioni di diritto di famiglia, e così è, devo dire, nella maggior parte dei paesi europei. Qual è il punto? Perché la discussione, che sembra una discussione fra processualisti sull'opportunità o non opportunità di creare un giudice specializzato per la famiglia, si interseca con la discussione fra padri separati e il resto del mondo, sembra una di quelle probabili partite di calcio, guardando un po' il dibattito, cercando di guardarlo da fuori. Qual è il punto, secondo me? Noi assistiamo periodicamente a questo scontro, che ogni tanto riemerge come un virus nei nostri dibattiti. Da una parte ci sono i padri separati, che dicono: noi veniamo bistrattati, ci togliete dopo la separazione il diritto quasi naturale di ogni essere umano della vita quotidiana con i propri figli, ci trasformate in genitori del fine settimana alternato, ci escludete dalla quotidianità dei nostri figli, e questo è drammatico. E questo è un primo verso della discussione. Dall'altra parte si dice: non è vero nulla, dico, obiettano le madri, noi non vi escludiamo per niente, vi siete mezzo esclusi da soli prima, nel senso che prima della separazione vi occupavate dei vostri figli nei ritagli di tempo mentre noi tiravamo la carretta, adesso andiamo avanti a tirare la carretta, non sapete quanto è difficile occuparsi da soli come unico genitore di crescere un figlio con le difficoltà indubbie che al giorno d'oggi presenta questo compito di crescere i figli, difficoltà che vanno dalle difficoltà economiche, perché le famiglie separate ovviamente stanno peggio di quelle non separate, che già al giorno d'oggi non stanno bene di loro. E quindi, diciamo, c'è questo dibattito violentissimo, sempre uguale a se stesso. In mezzo c'è il coro dei giusti, quelli che pensano di dire: ma no, ma è tutto sbagliato, perché mai è tutto sbagliato? Perché i genitori dopo la separazione non devono litigare. E allora che cosa si fa per dire che i genitori non devono litigare? Si dice che devono andare dal mediatore familiare, e questo la legge sull'affidamento condiviso lo ha previsto nel 2006, ha in qualche modo introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della mediazione familiare. Ma qual è il problema? La verità è che esistono nella nostra società tantissimi, sono la stragrande maggioranza, di genitori che non litigano affatto, che sono bravissimi a crescere i loro figli da genitori separati, perché quelli che invece litigano fanno ovviamente più rumore, ma nella maggior parte dei casi, bisogna dire, i genitori che si separano sono genitori responsabili, che capiscono da soli, senza bisogno di giudici, di avvocati, di esperti, eccetera, eccetera, che capiscono benissimo da soli che per il bene dei loro figli non devono litigare. Ma l'ordinamento non deve prestare assistenza a questi signori che non hanno nessun bisogno di assistenza, deve prestare assistenza a coloro, e purtroppo ci sono, che litigano. E deve prestare assistenza non dividendosi tra quelli che dicono è colpa delle madri e quelli che dicono è colpa dei padri. Francamente, nella mia esperienza, non di professore universitario ma di avvocato, ho conosciuto tantissimi padri pessimi e tantissime madri pessime. A questi signori bisogna dare una risposta, e la risposta non può essere: cari signori, non dovete litigare, dovete andare da un mediatore familiare. Ci sono dei casi in cui i mediatori familiari servono, danno risultati eccellenti, ci sono mediatori familiari fantastici che disingarbugliano situazioni ingarbugliatissime, ma molte volte questo non basta. E allora serve un giudice che dia risposte, che dica chi ha torto o chi ha ragione. Succede spesso che il giudice in queste materie dà torto a tutti, perché dice: la lite è un disvalore in sé, voi litigate, siete tutti e due cattivi. Sa come quei genitori che di fronte a due fratelli che litigano dicono: ecco, tutti e due in camera vostra. Ecco, devo dire, l'atteggiamento che spesso si vede è questo: è colpa di tutti. È un atteggiamento francamente abbastanza pericoloso, all'ombra del quale poi si consumano, sia da parte dei padri che da parte delle madri, sopraffazioni indegne. Perché mentre il giudice continua a dire: non dovete litigare, non dovete litigare, non dovete litigare, poi c'è il più arrogante, il più prepotente, che in questo limbo ne combina di cotte e di crude. Il primo dei problemi è dato dai tempi della giustizia ordinaria, i tempi dei nostri tribunali sono incompatibili con la crescita di un figlio. Voglio dire, in molti tribunali, quando due genitori dopo la separazione litigano perché il padre sostiene che la madre non gli fa mai vedere il bambino perché il bambino, guarda caso, è sempre ammalato quando è il turno del padre, o la madre che dice che il padre quando ha con sé il bambino non se ne occupa e lo lascia alla babysitter e intanto se ne va a spasso con l'amante, questo è il livello spesso delle discussioni, il giudice impiega o i genitori che litigano più seriamente su qual è la scuola a cui iscrivere il bambino in futuro, e il giudice ci mette 9 mesi a fissare la prima udienza. In quei 9 mesi succede di tutto. Ma in che cosa, se posso chiederle, professore, l'introduzione del giudice della famiglia, per esempio su questa questione dei tempi, avrebbe qualche possibilità di maggior rapidità e invece non si adeguerebbe poi ai tempi complessivi del sistema giustizia italiano? Allora, generalmente l'esperienza insegna che il giudice specializzato è un giudice più organizzato a rispondere ai singoli problemi con tempi adeguati al particolare problema. Ma la riforma tendente ad introdurre un giudice della famiglia dovrebbe essere una riforma che modifica le procedure nel complesso. Parto da un esempio, il più banale. Oggi, se padre e madre litigano per l'argomento più nobile che accade di vedere davanti ai nostri tribunali, la scelta della scuola del figlio, no, questa è la lite più nobile. Cosa succede? Che in vista dell'iscrizione a scuola uno dei due si rivolge al tribunale. Si rivolge al tribunale con un ricorso al tribunale, come si dice, in camera di consiglio. Per prendere questa decisione è necessario un collegio di 3 giudici. Ora, un collegio di 3 giudici significa mettere assieme il ruolo di 3 magistrati, che devono tutti e 3 essere presenti a quell'udienza. E quindi i tempi di mesi davanti al Tribunale di Milano per una cosa del genere, si attende mesi, e questo nonostante sforzi titanici dei giudici per cercare di fare fronte con le risorse che ci sono alla domanda, perché naturalmente la legge sull'affidamento condiviso ha aumentato tantissimo il contenzioso, perché dicendo che le decisioni devono essere prese dai 2 genitori assieme, è ovvio che si moltiplicano i casi in cui manca l'accordo, e il legislatore avrebbe dovuto farsi carico di questo problema. Allora, dire che ogni disaccordo fra i genitori, dalla scuola all'iscrivere il bambino al corso di tennis piuttosto che mandarlo in piscina, c'è la madre che dice no perché il tennis fa crescere storti e il padre che invece vuole il tennis perché lui era un grande tennista, dire che ci devono essere 3 giudici per risolvere questo problema francamente pare sproporzionato. Chiarissimo, allora la interrompo perché è evidente che l'impostazione del professor Rimini dice le mediazioni affidate alla buona volontà non funzionano, e i tempi sono troppo lunghi. Con un giudice speciale avremmo una ragionevole certezza di un giudice che decide, proprio per il fatto di essere speciale, anche con tempi diversi. Io vi riepilogo alcuni dati, perché altrimenti si perde di vista la nozione concreta dei fatti di cui parliamo. Sono andato a vedere qual è il numero di fatti di sangue maturati e avvenuti nel nostro paese per effetto appunto di separazioni, divorzi, convivenze che cessano, affidi di figli, eccetera. Tenete conto che se nel 2002 di questi fatti di sangue ne avvenivano ufficialmente registrati in Italia per queste cause 854, ecco, il numero è poi cresciuto negli anni successivi, 937, 1015, 1053, 1225, eccetera. Le vittime sono passate da 613, 665, 712, 736, 822, siamo quasi a quota 900 l'anno. Ciascuna di queste cifre è anno per anno. Ecco, naturalmente le percentuali invece di chi commette queste cose, come vi ho detto, 3 su 4 sono uomini. Le prime reazioni degli ascoltatori al tema della giornata: c'è chi sostiene che non siano nuove leggi a dover risolvere il problema, perché occorrerebbe, forse sarebbe più utile, una vera campagna di educazione sentimentale, perché le leggi non fermano purtroppo odio e follia. Claudio: c'è chi dice che da quando la donna lavora i bambini passano più tempo con i nonni e con babysitter, e di non trovare giusto che nella maggior parte dei casi i figli vengano affidati alla mamma. Questo è Antonio da Torino. C'è un educatore di adolescenti nel disagio che sostiene che servono professionisti della mediazione, non avvocati che istigano il conflitto. L'avversione di molti per gli avvocati matrimonialisti è un punto fermo, devo dire, constatato in tutte le trasmissioni che conduco su questo argomento. C'è chi sostiene che l'affido condiviso con il doppio domicilio sia fatto per la cattiva coscienza dei genitori, perché in realtà poi i figli hanno bisogno di un routine, certezze, e non di essere trasportati come un pacco da una casa all'altra, magari con compagni di vita diversa, dei coniugi separati o divorziati. E di sostenere chi ci manda questa osservazione, cioè Giovanni da Verona, è convinto che per i propri figli preferisce con certezza una scelta precisa piuttosto che una vita da pacchi. Sentiamo qualche telefonata e poi vediamo con Marino Maglietta e con un nuovo ospite che si è aggiunto, l'avvocato Marzia Simeonato, penalista e matrimonialista del Foro di Milano. Buongiorno e grazie avvocato. Buongiorno a voi. Allora, sentiamo intanto due telefonate. Cominciamo con Laila, che ci chiama da Modena. Prego, Laila. Buongiorno. Niente, sentendo le varie proposizioni della trasmissione, d'accordo con tante, io partivo da questa cosa, che probabilmente è necessario più a monte un cambiamento culturale di ruoli, perché quando la coppia è ancora unita, i ruoli sono, il carico anche dei ruoli è molto diverso, quindi questa forte rivendicazione dei padri, un momento che dopo che sono separati, lo vorrei vedere anche prima, non so se ho... Benissimo. Chiarissimo. Naturalmente siamo nel campo degli auspici, così, e purtroppo poi il legislatore deve porsi un problema, perché con gli auspici, ohimè, temo che non si risolva, anche se poi il fondamento del ragionamento di Laila è naturalmente assolutamente condivisibile. Sentiamo Enzo, che ci chiama da Milano. Prego, Enzo. Sì, buongiorno dottor Giannino. Ma il discorso nasce un po' da questo. Io posso essere d'accordo con tutti, diciamo, sia gli interventi che sono stati fatti, sia gli sms che vi hanno mandato, ma secondo me è inutile creare delle nuove figure se queste figure si comportano esattamente come si sono comportati i giudici fino adesso. Voglio dire questo, io sono reduce dalla separazione, dal divorzio della mia compagna col suo ex marito, stavano andando per via giudiziale, diciamo non per volere della mia compagna, anzi lei era più favorevole a un divorzio, diciamo, consensuale. Di fatto sono andati con due avvocati diversi e comunque alla fine tutto è bene, quel che finisce bene, sono finiti in consensuale con la separazione condivisa, diciamo così, divorzio condiviso. Il discorso è che i giudici, io so che non hanno molto tempo a disposizione, ma questo tempo, santo Dio, dovrebbero trovarlo, perché il discorso è che è obbligatorio presentare una memoria, diciamo, col proprio avvocato, e di fatto di questa memoria i giudici non ne prendono atto. È inutile mettere qualsiasi punto saliente, o che perlomeno tu pensi che sia saliente per la tua causa di divorzio, di fatto non ne viene preso, cioè sono solo 5 minuti che vengono concessi più in questo in media per un divorzio, e assolutamente il giudice non è a conoscenza del problema, vuole essere messo a conoscenza del problema in quei 5 minuti. Secondo me questo è assolutamente sbagliato. Grazie a Enzo. E allora sentiamo con Marino Maglietta, che si occupa, insomma, da molti anni, ha fondato l'associazione Crescere Insieme nel 93, a Firenze e lo abbiamo ricordato, l'estensore del testo base, insomma, della legge, la 54 del 2006 sull'affido condiviso, e proprio a Maglietta chiedevo qual è la sua opinione intorno a come poi ha funzionato o non ha funzionato la legge e qualche notizia aggiornata sul cantiere che è nuovamente all'opera in Parlamento e a cui come sempre condivide in prima fila. E l'impostazione di Rimini rispetto al bilancio molto critico della mediazione familiare che fa il professor Rimini, la vede d'accordo oppure no? Perché lei invece tradizionalmente passa per un sostenitore della mediazione. Guardi, io sinceramente mi dolgo di non poter toccare tutti i punti che sono stati affrontati finora, che sono stati veramente enormi, una quantità sterminata. Comincio col fare una precisazione assolutamente dovuta. Il professor Rimini ha detto il contenzioso è aumentato perché adesso bisogna concordare decisioni principali come la scelta della scuola, non sono assolutamente d'accordo, abbiamo una legge che dice tutt'altro, abbiamo una legge che prevede, ma da sempre, anche prima, che le decisioni principali vanno concordate a prescindere dall'istituto, quindi anche con un affidamento esclusivo, è sempre stato così, la scuola andava concordata, viceversa, per quello che riguarda l'ordinario, c'è un cambiamento deconflittualizzante, perché mentre prima il genitore affidatario decideva sull'ordinario anche quando i figli stavano con l'altro, quindi gli entrava in casa per sindacare a che ora doveva tornare il bimbo dalla partita di calcio, dalla discoteca, se aveva fatto i compiti, in che giorno, eccetera. Questo sicuramente non rasserenava nessuno. Adesso esiste l'esercizio separato della potestà come possibilità proprio per il conflitto, in modo che ognuno gestisca liberamente per le piccole decisioni senza intromissioni. Quindi questa affermazione che la conflittualità è aumentata credo che sia assolutamente gratuita e soprattutto non corrispondente al dato di fatto giuridico. Quindi mi vorrei attenere proprio a quello che sappiamo di sicuro. Sono d'accordo con il professor Rimini sull'affermazione che non bisognerebbe contrastare le inosservanze in modo più efficace, che ci vorrebbero strumenti di sanzione più efficaci, questo ce lo siamo detto anche con la dottoressa Cavallo recentemente, sono assolutamente d'accordo, però questa è una parte del problema e non è la parte, come dire, preventiva, è una parte repressiva. Allora io mi domando per quale motivo ci sono tanti abusi? Ci sono tanti abusi perché la legge in vigore dice cose chiarissime che non vengono fatte e allora le persone ci provano. Capisce? E mi sembra molto evidente che se noi avessimo un affidamento effettivamente e inevitabilmente bilanciato, se avessimo possibilità di, per esempio, attraverso il riconoscimento sul concreto al bambino del diritto a una cura diretta, e questo è un suo diritto indisponibile che la legge attuale afferma, da ciascuno dei genitori, quindi compiti di cura assegnati al padre e alla madre in modo ben preciso e distinto, tutti questi sconfinamenti di un campo nell'altro, la lotta per avere più giorni perché poi in questa maniera si diventa titolare di assegno, tutto questo sparirebbe. Cioè, io non posso, e sono d'accordo col professor Rimini, non posso pretendere che l'ammalato si guarisca da solo, che le persone non si ammalino. Quindi il conflitto non possiamo attribuirlo, l'esistenza del conflitto, a chi sta male. Dobbiamo però certamente riconoscere che ci sono delle modalità, delle regole che sono quelle in vigore e il modo di gestirle che possono favorirlo o viceversa disincentivarlo. Nessuno si azzarda a rubare quando sa che verrà sicuramente preso. Ecco, ci si prova quando si sa che poi va bene. Quindi è vero che ci sono tutta una serie di comportamenti come inventarsi la febbriciattola, inventarsi la festicciola, dire che c'è un rifiuto, una poca voglia di venire, eccetera, e questo passa liscio. E allora ci si continua a provare. Poi su questo vorrei dire una cosa sulla PAS, magari spero ci sia il tempo. Però appunto se c'è la sanzione, se si parte bene, diciamo pure, allora le cose vanno diversamente. Riprendo il discorso dall'inizio. Cosa succede quando ci si separa? C'è una legge che dice che il figlio ha diritto a un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e ha diritto a ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi. Quali sono i provvedimenti? I provvedimenti ricalcano il vecchio affidamento esclusivo, quindi non c'è praticamente nessuna differenza se non nominalistica. Genitore affidatario si chiama collocatario, genitore collocatario sta quasi tutto il tempo con i figli, l'altro genitore ci passa il fine settimana alternato, un giorno infrasettimanale, e corrisponde un assegno che rappresenta la delega dei compiti, delle funzioni e del ruolo di genitore all'altro. È evidente che si scatena la lotta per essere collocatari, esattamente come prima si scatenava la lotta per essere affidatari. Quindi questa è un po' la scoperta dell'acqua calda. Non possiamo meravigliarci se poco è cambiato. La sentenza del Tribunale di Milano dice una cosa vera e falsa allo stesso tempo. E quello la commentiamo poi con l'avvocato che era parte in casa. È vero che non è cambiato nulla, ma perché nell'applicazione, non perché la legge non sia cambiata, è radicalmente cambiata, solo che si continua a fare le stesse cose. Come cambiarla ulteriormente dunque? Allora, come cambiarla ulteriormente? Rendendo ineludibili le sue prescrizioni, quindi sottolineare, per esempio io ho usato l'aggettivo paritetico, ma non per i tempi, bisogna fare attenzione, non per i tempi, l'ho usata per i compiti, per le responsabilità. Quindi deve essere chiaro che non c'è un genitore prioritario, privilegiato, qualcuno ha scritto prevalente. Questa è una cosa che a sua volta, ancora una volta, aumenta il conflitto. Io voglio essere prevalente rispetto a te, perché è facile spostarsi psicologicamente prima e operativamente dopo nell'attribuzione di un aggettivo discriminatorio, e quindi pensare se io sono il prevalente come genitore, beh, in fondo sono anche quello migliore, diciamo che quello che nella coppia, il soggetto che nella coppia era la parte buona. Tutto questo è incentivante del conflitto, non disincentivante. Dico due parole sulla PAS perché mi sembra da non dimenticare, poi si rallaccia un po' anche alla mediazione su cui lei mi ha sollecitato. Dunque, è inessenziale parlare di sindrome di alienazione genitoriale, c'è scritto come esempio nella proposta appunto che sta adesso al Senato, però quello che mi premeva sottolineare è qualcosa che esiste già. E cioè che se c'è stata una manipolazione, che c'è un rifiuto e c'è il sospetto, questo rifiuto del bambino di incontrare uno dei genitori sia legato a una sua manipolazione, questo va indagato. Si dice solo questo, che poi questa manipolazione si chiami sindrome di alienazione genitoriale in un altro modo non importa assolutamente nulla, è irrilevante. Quindi è inutile dire ma la PAS l'ha introdotta un soggetto che è di dubbia fama e di dubbia reputazione, non ce ne importa un fico secco. Cioè, quello che conta è che ci sono situazioni di condizionamento del bambino che vanno sanzionate, identificate e sanzionate, questo è il concetto. Per quello che riguarda gli altri aspetti, fondamentale, veramente fondamentale, è la forma diretta del mantenimento, che il legislatore in questo momento ha già assolutamente sancito, ma che non viene stabilita quasi mai. C'è una sentenza bellissima del Tribunale di Catania, per esempio, mi diceva Melita Cavallo, per esempio, che lei a volte lo stabilisce, un 10% dei casi. Però quando un genitore lo chiede, allora secondo me non si può rifiutare quello che appartiene, che dà concretezza al diritto del bambino, perché il diritto alla cura è questo. Cioè mantenere direttamente un figlio non è importante perché non si danno più soldi all'altro genitore, questo è secondario, anche se secondo me è deconflittualizzante. La cosa importante è che dare del denaro significa fai tu, ti pago come una badante, come una babysitter. Provvedere significa spendere per il figlio perché si è fatti carichi delle sue necessità. Benissimo, un'attenzione. La devo fermare, alcuni sms di nostre ascoltatrici che dicono state trascurando un aspetto, c'è un'ascoltatrice Anna che dice nella mia esperienza di madre separata non era in gioco la possibilità del padre di frequentare ampiamente i figli, ma la pretesa di una divisione matematica del tempo dei figli al 50%, e non contava il buon senso, ohimè, ma il potere, che è un condizionamento culturale ancora molto forte nei rapporti tra genere maschile e nei confronti del genere femminile. Ora l'informazione sulla circolazione stradale. Un altro ascoltatore, sms, non dimentichiamo che la casa va al genitore collocatario, sempre la madre, quasi sempre la madre, quindi l'altro genitore resta in mezzo ad una strada anche quando ha il figlio con sé, e questo certo non può indurre molti uomini ad avere poi buona comprensione dei diritti del coniuge che ha avuto maggior tutela, che naturalmente nei messaggi che ci arrivano è sempre la donna. Natalina da Novara, qual è la sua opinione e esperienza sulle proposte che ha ascoltato stamattina? Natalina, prego. Guardi, sono veramente inorridita perché ho sentito delle cose incredibili. Allora, cioè, innanzitutto esistono dei padri, parlo del mio caso, completamente assenti completamente, per cui vedono la figlia un sabato e una domenica, ma non ci sono mai per portarla a scuola, non ci sono mai quando la bambina sta male, di notte non si alzano perché la bambina non riesce a dormire, non la portano a giocare, non fanno nulla, però vogliono tutti i diritti. Parliamo di affidamento condiviso, voi dovete cercare, il legislatore deve cercare di separarli i genitori, di tenerli il più lontano possibile, perché c'è un conflitto altissimo che di solito avviene sempre davanti ai figli. E invece questi legislatori cosa fanno? Fanno sempre di più per far sì che questi genitori si debbano vedere, debbano discutere, debbano parlare, debbano decidere. Ma cos'è questo affido condiviso? Decidete qual è il genitore più idoneo a svolgere una funzione, e quel genitore deve avere la maggior parte della possibilità di poter agire, di fare, perché sennò veramente è una litigata continua che sfocia poi in manifestazioni violente. Ma poi scusi, mi faccia finire, questo adesso addirittura si parla del mantenimento diretto. Ma stiamo scherzando? Cioè, ma piuttosto glieli do io a lui i soldi a questo punto e faccia tutto lui, se non volete darli a me. Ma io vado grazie a fare spese. Grazie Natalina, e mi pare che qui sia più vicina, insomma, la tesi del giudice incardinato della famiglia, come dice il professor Rimini, piuttosto che a un'ipotesi di tutela come quella di però sempre di mediazione. Il Marino Miglietta ci ha spiegato nel disegno di legge al quale lavoro nel 1957, introducendo alla formula che è quella del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, che è il diritto del minore in caso di separazione, di aggiungere questo avverbio pariteticamente. Chiediamo all'avvocato Marzia Simeonato, che rappresentava parte in quel procedimento la cui sentenza si è pronunciata proprio sull'affido condiviso, che però in buona sostanza, ha detto il giudice di Milano, non è che cambia le cose fondamentali del regime precedente, come confermato anche da Miglietto. Nella sua esperienza di penalista e matrimonialista, il giudice della famiglia sarebbe il passo avanti, oppure bisogna continuare a lavorare sulla mediazione e sulla tutela dei diritti, ma in una prospettiva di mediazione come propone Miglietta, avvocato Simeonato? Ma guardi, secondo me sono importanti e interessanti tutti e due gli aspetti, sia il discorso del Tribunale Unico della Famiglia, sia il discorso di mediazione o anche altri strumenti di percorso che possono aiutare i genitori a superare i conflitti, ad affrontare i conflitti. Il Tribunale della Famiglia, a mio avviso, come ha detto anche il professor Rimini, potrebbe consentire di garantire quella competenza, specializzazione che a mio avviso, per l'esperienza che ho un po' maturato in questi anni, è indispensabile. E soprattutto, e questo è emerso anche dagli interventi interessantissimi degli ascoltatori, potrebbe garantire una tempestività di intervento, un maggiore spazio di ascolto che in questo momento non è garantito. Infatti, come è emerso, e il rammarico di molti genitori che si separano è proprio quello di non aver un tempo di ascolto sufficiente, di non farsi conoscere abbastanza da chi poi decide e determina le condizioni della propria separazione, di non essere compresi. Quindi un'autorità giudiziaria specializzata, preparata, competente in materia e magari con risorse che potrebbero garantire più forze e più tempi da dedicare a situazioni spesso molto conflittuali, potrebbe essere un'importante soluzione. Questo anche per adottare decisioni che siano, come appunto segnalava anche il professore, al tempo, che tengano il tempo e il passo con quelle che sono le situazioni familiari e gli interventi contingenti che in quel momento devono essere effettuati. È importante anche il discorso delle sanzioni per far rispettare le regole e i diritti riconosciuti agli uni agli altri, però giustamente una sanzione può avere un senso, il rispetto della regola è concreta, avviene realmente se è compreso dalla persona direttamente interessata, se c'è stato un progetto di elaborazione della situazione, un percorso, un cammino che porta ad acquisire quella capacità di mettersi in discussione, quel buon senso che è stata sottolineata anche dall'intervento del Tribunale per i minorenni, da quel decreto adottato prima dell'estate di cui stavamo parlando. In buona sostanza il Tribunale cosa ha detto? Ha detto sì, il giudice può entrare nel merito della situazione privata indicando quali possono essere le decisioni di maggiore o minore interesse per i minori di ordinaria o straordinaria amministrazione da adottare a tutela dei bambini, ma non può disciplinare qualsiasi aspetto della vita reale e concreta e non può sostituirsi mai al buon senso che è richiesto ai genitori in questo percorso. Eh sì, quindi, avvocato, il buon senso dei genitori, però io temo che i dati debbano indurre gli operatori del diritto e il legislatore a questa escalation, che non è l'aspetto fondamentale, ma quando si arriva a 1000 vittime l'anno, più o meno come ordine di grandezza, di sicuro mi pare che il buon senso per il momento manchi. Avete sentito prospettive diverse e avete sentito quanta ira venga nelle testimonianze. Continueremo a occuparci di questo cantiere famiglia italiana e dei sentimenti e delle emozioni scambiate per sentimenti. I figli ricordano per tutta la vita quello che hanno sentito urlando dai genitori, ve lo posso garantire, per tutta la vita, lo sapete benissimo, ricordatevene quando alzate la voce e soprattutto non alzate le mani se ci riuscite. Questo è il mio appello con cui concludo. Grazie a Mario Maglietta, grazie a Carlo Rimini, grazie all'avvocato Marzia Simeonato, grazie a chi oggi ci ha assistito, in redazione Alessandro Marco Turli, Lina Giornale Radio, appuntamento a domani.